fare tutta la... Resto Radio Convento, per raccontarsi, per raccontare. Amici di Ristoradio Convento, bentornati, sempre Master Nick qui ai microfoni della web radio del ristorante Convento di Lonato. Come ci piace dire spesso, il nostro locale è caratterizzato tante volte da vari colori, vari abbigliamenti, varie scelte per festeggiare una serata, e questa sera siamo stati tutti rapiti dalla ragazza che abbiamo ora ai nostri microfoni e che potrete anche rivedere sulle nostre webcam se andate dal sito, perché le stiamo anche registrando un bel video di questa intervista. Lei dice di non andare, ovviamente, perché non lo so, perché non è un bello spettacolo? Esatto. Non è un bello spettacolo, allora niente, non andate, cancellate le parole che ho detto prima. Allora dai, un po' meglio, perché adesso abbiamo messo l'acquolina in bocca. Intanto diamo il benvenuto a Serena. Ciao a tutti. Ciao Serena, benvenuta. Allora, da dove vieni? Da Bergamo. Da Bergamo. E questa sera intanto dici come mai sei qui, o meglio, avevo paura a sapere il motivo della tua presenza, perché per un attimo credevo che stesse andando a fuoco qualcosa. Poi invece mi hanno detto di no, che è tutto a posto. Esatto. E che è solo un costume di scena. Esatto, per ora sì. Per ora sì. Questa sera cosa ti porta da noi? Addio al nubilato, mi sposo il 30 maggio con Alessandro. No, bello. E raccontaci un po' anche a questo punto del tuo abbigliamento, visto che ne abbiamo parlato così bene e così tanto, quindi è giusto che ce lo descrivi. Le mie amiche hanno deciso di vestirmi da pompiera, non so il perché. Però ha fatto colpo, esatto, sicuramente. Ha fatto colpo. Piace a tutti. Beh, piace a tutti, poi insomma c'ha un rosso molto vivo e quindi si nota, si fa notare, con anche zainetto al seguito che ho controllato vuoto, con delle tipo, come si dice, gli zaini dei Ghostbuster per intenderci, no? Però le bottiglie vuote, quindi anche leggero da portare. Che sembra un po' anche Super Liquidator, come tema, no? Sì. Ricorda un po' anche il Super Liquidator, sarebbe bello che sparassi un po' di bolle di sapone. Tra l'altro le amiche, le state vedendo, hanno tutte maglia nera, da rigorosamente nera uguale, con scritto Bride Squad, e sembrano veramente venute fuori dalle... Ah, addirittura c'è un retro? Aspetta che io leggo, Bergamo Fire Department, è proprio quindi un team completo. A questo punto voglio sentire chi è che ha pensato l'abbigliamento. Chi è la colpevole? Non lo so. Nessuno alza la mano, vedi come quando... Ah, tutte, rigruppo. Allora, come mai? Una che mi spieghi come mai il tema? Abbiamo cercato su internet un po' di vestiti carini. Sì? E mi sono saltato all'occhio questo. Vabbè, colpisce. Tra l'altro sottolineiamo, ce lo raccontavi prima, che tu non fai assolutamente la pompiera, o meglio, nulla a che vedere, no? No, esatto. Tutt'altro. Sì, lavoro nel reparto ortofrutta di un supermercato. Che ecco, perfetto, che insomma è molto conciliante con il lavoro da pompiere. Esatto. No, chi lo sa, sto pensando cosa potresti salvare, cosa potrebbe andare a fuoco nel reparto ortofrutta, ma la vedo dura. Beh, ma neanche come sogno da bambina, no? Non avevi un sogno così? No, volevi fare la ballerina magari? No, neanche, quindi neanche. c'entra nulla con il sogno neanche da bambina. A proposito di amiche, ci vuoi presentare, o non so se siano tutte amiche, magari qualche parente, qualche collega, ce le vuoi presentare un po'? Sì. Lei è Elena. Elisa, mia cugina Miriam, mia sorella Angela, Daniela e Giovanna. Perfetto, quindi sorella, cugina e tutte amiche di esatto. Vecchia data, nuova data? No, vecchia data. Una vecchia data, ok. E vuoi dire qualcosa al tuo ragazzo? Vuoi approfittarne per mandargli un messaggio? Niente, vuoi spegnere le fiamme del suo amore? No, che schifo, no? L'amore, che brutta cosa, beh. Niente, lui adesso è un addio al celibato, spero che si stia comportando bene. Otto, ce ne fosse una che non dice sta cosa. Chiunque, comportati bene, mi raccomando, se noi fossimo dannati dei disperati, no, dai, si sta comportando. Spero che tu sia ancora convinto. c'è il dubbio che serpeggia tra le righe, no? No. Ah, okay. Non si sa mai. Oddici un po', secondo... Sì, infatti, o è molto umile, nel senso che lei mette le mani avanti e dice, boh, ci sa mai, io fino all'ultimo mi lascio un po' di dubbio. Raccontaci un po', allora, cosa secondo te l'ha colpito di te? Cioè, cos'è che l'ha fatto innamorare di te? La mia semplicità. Sì, semplicità. che è una... Penso. Beh, vabbè, ognuno... La mia bellezza. La tua bellezza. Beh, bellezza e semplicità, che no, sono... Certo. Beh, guarda che la semplicità è un valore che nel 2019 non è così raro. Cioè, meglio, è molto raro. Sì, no, dici. Quelle non le avevano notate. Non le avevano notate. Pensa che si è accorta adesso, tra l'altro. Oh, guarda un po'. Ci sono delle cose che spunte. Cosa sono? No, perché lui mi ha conosciuto quando avevo un grembiule, quindi sotto non poteva sapere cosa. Vabbè, certo. Ah, c'è una storia, c'è una storia. Sentiamo. Racconta. La storia dell'incontro? No, niente, ci siamo conosciuti in un altro supermercato. Vabbè, insomma, è una vita in supermercato. Esatto. E una vita in corsia. Avevo su un grembiule, quindi non poteva sapere come fossi di fisico. Ok, pensavo poteva sapere fosse una donna. Diciamo. No. Ok. E niente, siccome lui era appena arrivato, dovevo addestrarlo e... Ah, ma è un collega, quindi? Sì, poi siamo licenziati da quel posto lì e lavoriamo in due posti diversi. Vabbè, però nel senso, comunque anche lui lavora più o meno nello stesso ambito. Ma pensavo fosse un cliente, ok? No. Quindi diciamo era una specie di stagista? Sì, esatto. Mm? E niente, dovevo addestrarlo, lì ci siamo conosciuti e poi mi ha chiesto di uscire. No, credevo mi ha chiesto duetti di prosciutto, no, no. A te ha chiesto di uscire. Esatto. E come ti ha chiesto di uscire? Niente, mi ha scritto su Facebook. Ah, ok. Perché io non sapevo, nonostante che lui fosse lì da... più mesi, c'è? Per mercato, non sapevo neanche che nome, quali sono i tuoi nomi. Beh, perfetto, perché una delle ultime cose che si chiede a una persona è proprio come ti chiami, no? Prima esatto. Ci si lavora per mesi e poi magari, ah scusa dimenticavo, come ti chiami? Perché ci si chiama O, per i primi mesi dico, oh, collaborazione, oh, vieni qua, oh. Esatto. È andata così. Beh, però vedi che alla fine è comunque andata bene, il grembiule fuga alle 8 a questo punto. Sì, quindi esatto. Vi sposate in grembiule. No. Ah no, niente, poteva no. Essere un'idea. Poteva invece l'abito da matrimonio, il grembiule. No, quello è passato. Quello è passato, dimentichiamolo, lasciamo lì dov'è. Va bene, allora vuoi aggiungere qualcosa Serena? Vuoi dire? Niente, ringrazio le mie amiche per la bella serata che mi hanno organizzato, mia sorella e mia cugina, che mi sto divertendo molto. Bene, bene, allora ringraziamo te per essere stata qui e ringraziamo loro per averti, non so se convinta o magari trascinata a forza qui e soprattutto per aver riempito di colori e di gioia anche il nostro sabato sera. Grazie mille ragazze e tanti auguri alla nostra futura sposa Serena. Ciao! Ciao!